I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Anything to say? I think you can confirm, deny. I can't confirm and I can't deny. I really have no comment on the rumors that have come out today. This decision has to be made by the president-elect, and so any questions have to be directed to the transition. Che uomo, che faccia, che giubbotto di pelle, quanti ricordi. Leon Panetta è tornato alla ribalta. Chi seguiva la politica americana in tempi clintoniani si ricorderà di questo capo dello staff della presidenza Clinton, dalla così, no, marcata provenienza, influenza italiana, che è tornato di colpo, di botto, sorprendendo tutti, sorprendendo prima di tutto proprio Washington, prima di tutto proprio la Washington democratica, che si è anche molto incavolata, proposto dall'ineffabile presidente eletto Barack Obama, ancora tale per 13 giorni, niente meno che come capo della CIA, uno dei posti chiave più difficili da interpretare, da prendere sulle spalle solo in presenza di un bagaglio, no, di conoscenze, ma anche probabilmente uno stile di approccio che forse potrebbe non essere quello di Leon Panetta, che fermato sulla porta di casa dai reporter, come sentivate nella intervista con cui abbiamo aperto oggi, Jefferson Ming ha detto: ma prima di tutto non posso dire né sì né no. Poi a una giornalista che le ha messo sotto il naso il microfono e gli ha chiesto: ma insomma, se è vero, facciamo conto che sia vero che Barack Obama la vuole come capo della CIA, lei dirà di sì? E lui ha risposto: beh, signori, io sono da 20-25 anni un servitore dello Stato, un compito di questo genere non potrei certamente rifiutarlo, tanto più dal momento che c'entra con questo compito la questione etica. Come vi dicevo, si sono incavolati di brutto. La senatrice Dianne Feinstein, una democratica californiana di grande peso, tra l'altro, all'interno del Senato americano, ha detto che a suo avviso il timone della CIA andrebbe affidato a un professionista dell'intelligence e non a Panetta, che ha esperienze di bilancio, ha esperienze appunto di capo di gabinetto di Bill Clinton, ma nello specifico servizi, intelligence, non è un esperto. E quello che dice la Feinstein è seguito da molti colleghi democratici. Del resto lei stessa, Dianne Feinstein, sarà futura presidente della commissione servizi segreti e proprio sotto le sue forche caudine dovrà quindi passare Leon Panetta, perché anche lui, come tutti, no, i futuri componenti dell'amministrazione, come ormai avete capito, devono passare, no, sotto questa commissione d'esame, strappare una vera e propria ratifica parlamentare, la stessa che è prevista dalla Costituzione. Panetta è una scelta particolare, che a noi fa venire in mente una piccola digressione che vi vorremmo proporre e che intitoleremmo la post-politica. Ma per fare il paio con Panetta e per spiegare meglio l'argomento vi farei sentire un'altra voce. The hormone imbalance itself can be a relatively common thing. The larger question, I think, that doctors and Steve Jobs probably trying to answer is what is causing that hormone imbalance. Allora, la voce in questione è di un famosissimo conduttore televisivo, un reporter scientifico, come si dice dalle parti nostre, il dottor Sanjay Gupta. Lavora a tempo pieno a CNN, è a tutti gli effetti un medico, anzi è un neurologo, e si occupa nell'ambito di CNN di una vastissima serie di argomenti. argomenti che naturalmente ruotano attorno alla salute, al benessere, ma anche al benessere inteso come quello delle comunità, delle città. Fece dei famosi, mi ricordo, dei famosi reportage, ad esempio, dalla New Orleans, no, vessata dall'uragano Katrina, un personaggio di grande popolarità negli Stati Uniti, e con questa sua declinazione indiana, no? Lui è di origini indiane, del suo sapere medico e scientifico, è diventato a tutti gli effetti una star mediatica. Adesso che è successo? È successo che Barack Obama ha offerto il posto di chirurgo generale, no? General Surgeon, come si chiama negli Stati Uniti d'America, proprio a Sanjay Gupta. Chi è il chirurgo generale? È una specie di garante pubblico della sanità, è una specie di grande comunicatore che parla al popolo di argomenti come, ad esempio, il fatto che le sigarette fanno male, quello che pretende dalla industria del tabacco di mettere certe scritte piuttosto che altre su le scatole di sigarette o sulle lattine di bibite gassate, è quello che parla agli americani di, non so, obesità, e poi convoca magari i responsabili dell'educazione e fa in modo che, posso dire, che nelle scuole non vengano più vendute le merendine, quelle che fanno ingrassare i ragazzini. È quindi un comunicatore, ma anche in un certo senso un amministratore del buon senso scientifico applicato alle tematiche del sociale contemporaneo. E Barack Obama gli vuole dare in mano a tutti gli effetti una specie di, chiamiamolo, ministero senza portafoglio, come questa carica di chirurgo generale. E quindi un giornalista di CNN, molto popolare, molto amato, molto ascoltato, molto stimato per la sua misura, per la sua coerenza, per la sua capacità di stare sempre nel modo giusto sopra le notizie, di commentarle ma con criterio, con logica, e un personaggio un po' dimenticato ma a sua volta molto amato dall'America, come Leon Panetta, un veterano buono della politica buona americana, ma insomma un uomo di corridoi, un uomo di navigazione, uno si sa muovere all'interno, no, nelle sfere del potere americano, chiamato addirittura a occupare la prima poltrona della CIA. Cosa c'è sotto tutto questo? Secondo me c'è una cosa che mi piace chiamare post-politica, laddove mi sembra di capire che un parametro come quello che chiamerei semplicemente dell'intelligenza, il parametro dell'intelligenza esposta da alcuni personaggi, da alcune personalità, e al tempo stesso della logica, come dicevo prima, anche del criterio, della capacità di amministrare, quindi della affidabilità, stanno prendendo decisamente il posto di altri, no? Criteri che hanno fin qui garantito l'edificazione delle gerarchie politiche e anche quelle amministrative. Quindi prima di tutto l'appartenenza e poi il correntismo e poi magari determinate stellette sulla giacca e quant'altro. Se una, no, caratteristica mi sembra possa essere individuata in questo momento nella gestione, almeno nella edificazione della squadra del gabinetto di Barack Obama, è proprio questo. E non è un caso che molti professionisti della politica poi in un certo senso si dibattano, no? Si innervosiscono davanti a scelte come queste, perché non c'è la garanzia immediata, non c'è l'appartenenza, non se ne intravede subito la provenienza, ma piuttosto bisogna cercare di decifrare perché comunque addirittura si arrivi a riciclare una intelligenza che altrimenti potrebbe essere perduta, una capacità di comunicare come quella di Leon Panetta o come quella del nostro chirurgo Gupta. È una premessa molto interessante con la quale abbraccio della quale andiamo incontro alla ormai imminente inaugurazione del 20 gennaio, e almeno qui, almeno un paio di notiziole qui ve le voglio offrire, perché secondo me sono assai succose. Insomma, c'è questo trenino, io me lo immagino un po' come il trenino di non so, di Paperino, immagino il capostazione, il conduttore di quelli con la divisa a righe, il berrettone in testa, no? E insomma, se coprirà la strada da Filadelfia a Washington, sopra ci sarà tutta la famiglia Obama in certi finestrini, ad altri finestrini canestrini, parecchi perché sono tanti, sarà tutta la famiglia Biden, ci saranno anche i cucciolotti a bordo, tra l'altro pare che gli Obama adesso ne pigliano due di cucciolotti, per, se non lo sapevate e stavate male ve lo dico, perché naturalmente due ragazzine litigano, ne vogliono uno per uno, quindi il problema dei nomi si moltiplica, ma su questo ci andremo successivamente, ma soprattutto sul treno che coprirà la tratta Philadelphia-Washington, salutando l'America, no? Come fece Abramo Lincoln, si chiama Whistle Stop Tour, questa esperienza evento di Obama e soci. Ci saranno anche 40 membri di 16 famiglie da 15 stati che sono stati sorteggiati e scelti, chissà con quale logica. Comunque c'è un lavoratore della Ford, ad esempio, un veterano dell'Iraq, un militare, e c'è anche il conduttore del treno che abitualmente ha portato a lavorare dal Delaware a Washington, Joe Biden. C'è populismo in tutto questo? Sicuramente sì, però la rappresentazione è straordinaria, lo spettacolo ormai fa chiaramente concorrenza a quello di Lady Diana di tanti anni fa. Ma che cosa volete fare quel 20 se non goderci tutti insieme globalizzati, no, questa inaugurazione, e poi fargli naturalmente le pulci, perché di guai nel frattempo a Washington ne continuano a saltar fuori, e l'ultimo porta il nome di un anziano mezzo senatore, non so come chiamarlo, comunque lui poverino si chiama I presented my credentials to the Secretary of the Senate and advised that my credentials were not in order and I would not be accepted and I would not be seated. Ho presentato le mie credenziali per entrare al Senato. Purtroppo le credenziali non erano in ordine e non mi hanno fatto entrare. È questo che ha dovuto dire, per di più sotto la pioggia, perché poi quando ci vuole piove anche. Naturalmente Roland Burris, questo anziano, anche molto focoso, politico del democratico dell'Illinois, che il luciferino governatore dello Stato Rod Blagojevich, alias Blago, quello che è governatore non lo vuole nessuno ma continua a essere governatore, ha scelto come successore di Barack Obama, e siccome a Burris la nomina è piaciuta moltissimo l'ha presa in parola, è andata a Washington, e la scena è tra le più penose a cui ci sia capitato di assistere negli ultimi tempi: non l'hanno fatto letteralmente entrare al Senato, per fortuna sulla porta, sotto la pioggia perché naturalmente pioveva, c'era un suo vecchio amico, un collega democratico dell'Illinois, che lo ha accolto, lo ha accompagnato in una stanzetta laterale dove gli hanno detto: no, mi dispiace, tu qua non ci puoi stare, non ti vogliamo, perché Blagojevich l'ha fatta troppo sporca. E lui dopo un po' è dovuto riuscire con il suo codazzo di assistenti e di agenti dei servizi speciali, e poi ha fatto la conferenza stampa che avete appena ascoltato sotto la pioggia, dicendo: io sono uno dei due legittimi senatori dell'Illinois stando a qualunque testo di legge della nazione, e questo è difficilmente controvertibile di fatto, perché o cacciano via Blagojevich o Blagojevich prende le sue decisioni, ma di fatto non è stato vistato il suo ingresso a prendere il posto di Barack Obama. La politica americana è anche questo, tutto il mondo è paese, ci sono anche storie che non funzionano per niente, come questa e come molte altre che circondano, no, l'insediamento in questi giorni di Barack Obama. Ricordo tutte le polemiche su Rick Warren, il reverendo che farà l'invocazione religiosa sulla presidenza e sulla nuova amministrazione, le dimissioni di Bill Richardson. Insomma, c'è molto disordine, molto fervore e un'atmosfera estremamente frizzante a Washington, perché i giorni che contano si stanno avvicinando. No matter how hard I try to get you. personaggio relativamente nuovo del solo americano, si chiama Rafael Sadiq, 100 Yard Dash. Vi ricordo che per comunicare con Jefferson Ming avete un numero per sms 349-238-6666 e avete i nostri due siti Facebook che ormai vanno a tutto vapore, che rappresentano anche uno dei core, no? dei punti forti della metamorfosi che il programma sta interpretando in questi giorni, ampliando in un certo senso il suo punto di vista, no? Diventando una specie di grandangolare, come diciamo noi, con naturalmente al centro gli Stati Uniti e i grandi cambiamenti in atto da Washington e dintorni, ma anche a tutte le altre grandi fonti notizie dello scenario internazionale, non senza dimenticare naturalmente l'originale protagonista del sorpasso, ovvero la Cina. Quindi di queste cose ci occuperemo nei prossimi giorni, e di queste cose potete parlare con noi su due siti che si chiamano rispettivamente Redazione Jefferson Ming per parlare specificatamente con noi, o Jefferson Ming Radio 24 per dibattere degli argomenti di cui si discorre qui in trasmissione. Prima pagina. E veniamo con la rassegna stampa alla nostra prima virata verso Oriente, verso la Cina. Dunque, ci sono notizie di cronaca molto importanti. Innanzitutto, un indizio non fa una prova, ma crea indubbiamente allarme, e così ecco che rimbalza dalla Cina la notizia che una donna è morta a Pechino e si ritiene per influenza aviaria. Quindi ritorna una vecchia minaccia che aleggia sempre nell'aria cinese. All'inizio non erano stati forniti dettagli di questa morte, poi si è scoperto che la donna, la ragazza, in realtà aveva 19 anni. Dunque è la prima donna, dal primo essere umano tra l'altro, a morire, sembra, di aviaria da un anno a questa parte. Si è ammalata la vigilia di Natale, il 24 dicembre, ed è stata ricoverata in ospedale il 27, e si è saputo poi che aveva avuto contatti diretti con pollame prima di ammalarsi. Infatti nella provincia del Fujian aveva comprato 9 oche in un mercato e poi ne aveva estratto l'interiore. Ma la notizia bomba invece di queste ore in Cina, direi una notizia impensabile fino a pochi anni fa, è che è scattata una vera e propria caccia al serial killer. Nella provincia cinese dell'Hubei c'è anche una taglia messa a disposizione dalla polizia di 50.000 yuan, una cifra incredibile per i cinesi, perché sono 5.000 euro, credo che siano lo stipendio di un anno per un normale cinese, ma poi neanche tanto. Bisogna dare informazioni utili per trovare un rigattiere di 32 anni che è ritenuto il principale sospettato, e quindi per ora l'unico accusato, dell'omicidio di 8 persone, tra cui un bambino di 2 anni e sua nonna. Tra l'altro queste due vittime, le prime trovate in questa catombe, sembra che abbiano ferite da scure, cioè sembra che l'uomo si sia armato di un'ascia, certo, per compiere i suoi delitti. Poi hanno trovato altri 6 cadaveri, 3 uomini e 3 donne. Quindi continua la caccia a questo 32enne rigattiere che si chiama Sion Zelin. Seguendo Sion, invece, una notizia per rocchettari puri della prima ora e anche piuttosto stagionati, una notizia triste. Si chiama Ron Ashton, ormai aveva 60 anni, è stato sempre, per tutta la storia di questa leggenda del rock, il chitarrista degli Stooges, ovvero la band di Iggy Pop, la band proveniente dal Michigan, con quella radice così intensamente operaia. L'elettricità ci stava perfettamente a proprio agio nel suono di Iggy Pop e degli Stooges, il raw power, come lo chiamava lo stesso Iggy, che sempre ha avuto a fianco un signore che un tempo era un ragazzino sbarbatello, adesso era un bel signore cicciotto con la barbetta, ma che era sempre la spalla fissa, nonché il geniale creatore di licks, di riff di chitarra per le canzoni di Iggy Pop. Se n'è andato a casa sua, Ann Arbor, Michigan, per cause non ancora chiarite, ma sembra naturali, sembra non esserci particolari stravizi di mezzo alla morte di quello che sicuramente è uno delle icone più originali e anche più così cult, no, del rock americano. C'era I Wanna Be Your Dog, una delle canzoni più belle, più famose degli Stooges. Iggy gli mordeva la chitarra a Ron. Allora, veniamo sempre alla Cina, perché ieri abbiamo annunciato che il 2009 sarà anno di anniversari importanti, alcuni molto delicati, uno tra tutti l'anniversario dei 20 anni della strage di Tiananmen, e sull'onda anche di questi anniversari che cadranno, ma soprattutto della crisi che si sta diffondendo in alcune zone, soprattutto della Cina, si prevede da parte di autorevoli fonti cinesi un anno di proteste e di forti disagi popolari, in particolare per la disoccupazione. Lo dice una rivista tra le più autorevoli cinesi che si chiama Outlook Magazine, nella sua versione almeno inglese, e si legge testualmente nella rivista: nel 2009 il paese si troverà di fronte a nuovi conflitti e scontri che metteranno ulteriormente alla prova a tutti i livelli le capacità di governo del Partito Comunista e del governo stesso. Ricordiamo che nei mesi scorsi sono stati persi 10 milioni di posti di lavoro in Cina, e nei prossimi mesi invece si prevede che almeno 7 milioni di nuovi diplomati faranno fatica ad inserirsi nel mondo del lavoro. E per finire invece un compleanno, anche se virtuale, anche se di fantasia, ma gradito anche a molte ascoltatrici di tutte le età, perché compie 50 anni niente meno che Barbie, no? Amica nemica, come dire. Comunque la bambola condivisa globale ce l'hanno, porta bene, ce 50 anni però. Se riporta bene, e verrà festeggiata dai più grandi stilisti che prepareranno meravigliosi abitini per Barbie, ma soprattutto dalla apertura a New York di un negozio, mostra, celebrazione, evento, insomma un posto dove naturalmente Mattel farà in modo di ottimizzare, come dire, questo anniversario, con nomi di mezzo come Giorgio Armani, Burberry, Benetton, Versace, Vera Wang, insomma Christian Lacroix, Monique Lhuillier, che io non so chi è, ma Barbie sicuramente suona bene. Sì. Carlos Diaz, correspondent for Extra, is with us. And on the phone in the Bahamas is Dr. Hubert Minnis, the Bahamas Minister of Health. Questa è la voce di Larry King, che su CNN per l'ennesima volta sta tornando sulla notizia di cronaca che in un certo senso ha caratterizzato l'immediato inizio dell'anno americano, ovvero la morte alle Bahamas di Jet Travolta, questo ragazzo di 16-17 anni, sedicenne ancora, figlio di John Travolta, leggenda del cinema americano, così tanto apprezzato e amato anche dalle parti nostre, in circostanze non perfettamente chiarite, che però a seguito dell'autopsia che ha avuto luogo nelle ultime ore sembrano aver trovato motivazioni sufficienti: un attacco epilettico, un problema che il ragazzo aveva da sempre, avrebbe ucciso Jet Travolta. Perché ce ne occupiamo? Perché sulla questione è tornato a spuntare, è riaffiorata l'ombra di Scientology di cui John Travolta da molti anni, come tante altre star hollywoodiane, è un sostenitore, un membro e un esponente, e se ne parla perché c'è chi fa delle supposizioni attorno alla conduzione paterna di John Travolta, delle condizioni tutt'altro che ottimali del figlio, della salute del figlio, della salute anche psichica del figlio, che secondo chi propone questa lettura delle cose non sarebbero state seguite e affrontate nel modo corretto, perché secondo alcuni dettami di Scientology ci sono delle controindicazioni, ad esempio all'uso di psicofarmaci, ad esempio alle terapie psicanalitiche, insomma, che si pensava, si faceva credere soprattutto che il giovane Jet Travolta avesse una malattia, nella fattispecie questa sindrome di Kawasaki, mentre invece ne aveva un'altra, soprattutto di ordine mentale, ma che questa sindrome non veniva curata, perché curarlo non era qualcosa che poteva andare d'accordo con i dettami di Scientology. Allora noi a questo punto abbiamo chiamato la persona che riteniamo più opportuna e adatta ed esperta sugli argomenti, ovvero Massimo Introvigne, il direttore del CESNUR, più volte ospite qui in trasmissione. Prima di tutto lo salutiamo, Introvigne, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, sotto la neve. Ma... sotto la neve che copre l'Italia, ma volevamo da lei un parere, una lettura, soprattutto in relazione a queste che possono essere insinuazioni, o forse possono essere invece delle motivate asserzioni messe a carico di Scientology. Noi sul nostro sito internet abbiamo titolato "È sempre colpa di Scientology", con un punto di domanda che a questo punto rivolgo a lei. Ma io naturalmente nulla so se non quello che hanno pubblicato i giornali americani e italiani del caso concreto, quindi non sono competente per dire che malattia avesse Jet Travolta. Posso solo dire che lo scontro, soprattutto in California, fra Scientology e i suoi avversari è uno scontro molto duro, quindi è normale che anche queste vicende molto dolorose siano utilizzate da ciascuno per la propria agenda. Posso anche confermare che effettivamente Scientology sconsiglia i suoi seguaci di utilizzare psicofarmaci e psicoterapie, a meno di non considerare Scientology stessa, che per altri versi è un movimento religioso, come una psicoterapia. Penso che spetti ad altri, spetti ai medici dire se psicoterapia e psicofarmaci avrebbero potuto fare qualche cosa per questo sventurato ragazzo. Certo. Penso però che il caso sia molto interessante, perché si inserisce in una lunga tradizione polemica sul diritto di rifiutare cure mediche. In Italia se ne parla per casi estremi come quello di Eluana, e in relazione soprattutto alle posizioni dei cattolici, ma in realtà i nuovi movimenti religiosi o movimenti più marginali hanno una lunga storia di scaramucce con i tribunali su questi problemi. Già nell'Ottocento e ancora fino ad oggi molti gruppi protestanti fondamentalisti, per esempio, rifiutano le vaccinazioni. Ci sono molti casi relativi alla Christian Science, che non è Scientology, è una religione nata in America nell'Ottocento, che rifiuta quasi tutte le terapie mediche, in particolare l'uso degli anestetici, e ci sono molti casi relativi ai testimoni di Geova che, come sappiamo, rifiutano le trasfusioni di sangue. Direi che nella maggior parte dei paesi europei... Possiamo accennare, Introvigna, alle motivazioni che vengono offerte, soprattutto per esempio nei confronti della psichiatria. Come viene motivato questo invito o questa regola al rifiuto? Guardi, Scientology ha avuto un'evoluzione, è nata come psicoterapia ed è diventata poi una religione, assumendo credenze che non sono semplicemente tipiche di una psicoterapia, come la reincarnazione e una visione del mondo, però è nata e conserva tracce evidenti di questa origine come psicoterapia alternativa, sulla base di un'idea che la psichiatria mainline, quella dei psichiatri e degli ospedali, basata in parte anche sull'uso dei farmaci, e anche l'alternativa psicoanalitica, sono false, danno una descrizione sbagliata di come funziona la mente umana, e la descrizione giusta di come funziona la mente umana, quindi i rimedi giusti, che sono in parte psicologici ma in parte necessariamente spirituali, la offre la dianetica, che è la prima parte, certo, del percorso di Scientology. Io so che lei ha avuto, noi tra l'altro ci incontrammo a suo tempo in occasione della famosa nozze di Tom Cruise, celebrate in Italia, e molto si parlò all'epoca della naturalmente appartenenza, che è anche qualcosa di più, di Tom Cruise nella organizzazione di Scientology. Ma so che lei invece ha conosciuto anche John Travolta, e forse ha qualche particolare da offrirci. Sì, io non ho mai conosciuto in effetti Tom Cruise, mm-hmm, ma un evento organizzato dalla chiesa di Scientology, cui era ammesso anche il pubblico esterno, ho avuto, certo, occasione di scambiare qualche parola con John Travolta, mm-hmm, il quale mi raccontava un fatto curioso, che lui aveva delle difficoltà di apprendimento che non lo disturbavano più del dovuto nella sua carriera di attore, ma che gli impedivano di prendere qualche cosa a cui lui teneva molto, che era il brevetto per pilotare aerei privati, certo. E che, applicando le tecniche che un amico, non ricordo adesso se fosse proprio Tom Cruise, che comunque era in Scientology prima, mm-hmm, di lui, gli aveva consigliato, applicando queste tecniche riuscì a prendere il sospirato brevetto di pilota, per cui era grato a Scientology, e questo lo spinse poi ad approfondire anche gli aspetti spirituali, certo, di questo movimento, e aderire alla religione. Descritto in questi giorni come un uomo letteralmente distrutto dalla perdita del suo amatissimo figlio. Per concludere, Introvigne, ma questa, insomma, in un certo senso, anche se un po' lateralmente, ma è un'altra ennesima bomba mediatica contro Scientology, e ne partono 2-3 l'anno di queste bombe mediatiche. Ma lei non è sorpreso della resistenza di Scientology a quella che sembra, insomma, una campagna? Per carità, Scientology sarà potente e ben orchestrata, ma contro l'anti-Scientology, vuol dire, è un partito ormai molto robusto. Sì, io qui non vedo francamente molto in questo caso dove stia la sostanza. Può darsi che mi sbagli, ma mi sembra, certo, effettivamente, certo, che la campagna sia un po' forzata. Però, come dicevo prima, me ne rendo conto, avviando un discorso molto più ampio, questo può essere forse occasione di meditare su fin dove può spingersi il diritto di rifiutare le cure mediche. Ripeto, tanti movimenti dell'Ottocento rifiutavano l'intervento degli ospedali sul corpo, dalle vaccinazioni alle trasfusioni, e lo fanno ancora oggi. Altri, come Scientology, rifiutano gli interventi degli ospedali sulla mente, con la psichiatria e gli psicofarmaci. Questo pone un grande problema giuridico che, ripeto, va molto al di là del caso Scientology, e forse è quello che sarebbe più interessante discutere. Va bene, ci torneremo sopra. Ringrazio del suo intervento Massimo Introvigne, direttore del CESNUR. Vediamo, è arrivato un certo signore in questo momento in conferenza stampa, ascoltiamolo un attimo. During the course of this campaign, during the course of the last 2 years, I committed to more change than that. We committed to changing the way our government in Washington does business, so that we're no longer squandering billions of tax dollars on programs that have outlived their usefulness, Notizie allarmanti attorno all'economia americana, alla perdita di posti di lavoro, costringono in un certo senso, a 13 giorni dall'insediamento, Barack Obama a prendere parola. Lo sta facendo esattamente in questo istante, lo avete appena ascoltato in diretta. Se al rientro sarà ancora lì, vi racconteremo di che cosa sta parlando. Needs. I'm confident that with Nancy's leadership and the efforts of leaders on both sides of the aisle, we will do just that. And with that, let me give Nancy an opportunity to speak. Thank you so much. E allora, questo è il discorso con cui Barack Obama ha appena presentato alla stampa americana la signora che comincia a parlare ora. Officer, and will do my best to create a government that works better for citizens. È il suo debutto, un altro debutto relativamente inatteso sulla scena della nuova amministrazione. Si chiama Nancy Killefer, va a occupare una posizione inedita che prima non esisteva semplicemente all'interno dell'amministrazione. La sigla è Chief Performance Officer, in sostanza è un supervisore del budget federale, la persona che deve controllare che le cose vadano come debbano andare, ovvero fondamentalmente che non vengano prodotti sprechi, ad esempio con finanziamenti, quei famosi earmarks, no? Quei finanziamenti a favore di strane cause che di solito servivano poi così per scambi di favori, ma anche per produrre una straordinaria fiumana di quattrini in uscita dalla amministrazione federale, e al tempo stesso invece controllare che vengano fatte le cose che è necessario, indispensabile fare per rimettere in piedi l'economia americana. Ha appena detto Barack Obama, facendo numeri ancora superiori a quelli che circolano in queste ore, ha appena detto: stiamo ereditando un deficit di 1,2 trilioni di dollari. E quindi non è che sarà proprio facile il lavoro di Nancy, una bella signora bionda che ha servito finora come direttore della McKinsey & Company, una società di consulting manageriale, e non è invece ancora l'ora della presentazione del dottor Gupta, il nuovo chirurgo, no? il chirurgo generale, il curatore della sanità dal punto di vista sociale, ma i contatti sono assai avanzati, pare anche le ultime agenzie americane ne parlano insistentemente. Bene, siamo contenti quindi di avervi offerto in diretta la notizia di questa ulteriore addizione allo staff presidenziale che debutterà tra meno di 2 settimane, e siamo ancora più contenti invece di chiamare in causa un amico che ci e vi parla dall'altra parte del pianeta, nella fattispecie da Shanghai, ovvero il nostro Saro Capozzoli, il fondatore di IESA, una società di consulenza per aziende italiane che vogliono fare affari in Cina, ma poi soprattutto ormai per noi, come dire, i nostri occhi sulla Cina contemporanea, sugli affari, sulla società, come vanno le cose, come Italia e Cina si stanno rapportando. Buon anno Saro e ben trovato. Sì, buon anno a tutti. Allora, tu ci hai scritto nelle ultime ore, come dire, rilanciando la lettura, l'interpretazione di questa storia che al centro ha la Fiat, anzi al centro ha qualcosa di ancora, se mi permetti di dire, più affettuoso della Fiat, ovvero la Panda, una macchina che tutti gli italiani in un certo senso hanno imparato ad amare, perché insomma la Panda alla fine è un pezzo di storia automobilistica italiana, vittima di un plagio in Cina, un plagio che però non ha ottenuto alla fine il riconoscimento. Ma raccontacela tu meglio questa storia e soprattutto le prospettive che ne escono, Saro. Beh, le prospettive di quello che è successo non sono molto rose, ecco, per quanto posso dire. Ecco, è successo che la Fiat ha perso una causa in Cina, una causa purtroppo definitiva, perché è arrivato all'ultimo stadio dei giudizi possibili, per un plagio. Cioè una società cinese, un'automerica cinese, ha copiato praticamente, proprio sputata, proprio probabilmente completamente, la Panda, e l'ha riprodotta così come la conosciamo noi, con qualche piccola differenza, qui in Cina. Ovviamente sono partite le cause, sono partite appunto il processo, eccetera, e purtroppo la Fiat ha perso. Ecco, praticamente adesso questa casa cinese può vendere in Cina, probabilmente in qualche altro paese, adesso bisogna vedere, la Panda made in China. Ovviamente non si chiama Panda, si chiama in un'altra maniera, ha un altro nome, ecco, ma questo non importa. Però quello che conta è il fatto che c'è un precedente che si è creato, che un design, un oggetto che è caratteristico, caratterizzato da un design particolare e distintivo, quindi stiamo parlando della nuova Panda in pratica, certo. Ora è replicato, è replicabile qui in Cina. No, ma Sara, dicela chiara e tonda, sono uguali o no? Ci sono veramente differenze minimali. Ho visto appunto anche ieri su un sito, perché noi qui abbiamo accesso alle informazioni, purtroppo i giornali italiani non arrivano qua fisicamente, ma abbiamo questo accesso tramite internet, un sito faceva vedere le foto sovrapposte e c'era praticamente un 3-4-5% di differenze proprio minimali, proprio, quindi io avevo avuto difficoltà a riconoscerle, quindi a distinguerle. Quindi qualcosa di abbastanza, adesso potrebbe partire una catena di, non dico di nuove azioni, di nuovi tentativi, di copie, che poi c'è un precedente, e quindi questo è un fatto grave. Ma ecco, per mantenere una terminologia automobilistica, questa storia è anche una bella ammaccatura sulla Fiat in Cina, no? Questo, diciamo che non è il primo caso, no? Partiamo da qui, ecco, non è il primo caso per il quale appunto si è fatto una causa di questo tipo. È successo anche la General Motors, è successo in precedenza, ecco, e dove in un primo momento la casa automobilistica ha perso, io sto parlando del caso della copia della QQ, no? Che è una copia di un'auto molto simile, prodotta da una società della General Motors. Però dopo questo primo causa si è un attimino arrivati un po' ad una transazione, e si è trovato un modo di produrla assieme, fra virgolette, quindi si è salito sul carro e si sta adesso facendo questa operazione assieme. Il problema è questo, che il fatto di essere arrivati a questo punto è stato molto un grave errore, perché adesso portare appunto di avere una sentenza definitiva a liberalizzare la copia, certo, di automobili e anche di altri prodotti. Se ne vedranno delle belle, mi sa. Se ne vedranno, il problema infatti è che purtroppo la Fiat non è che abbia fatto adesso grandi numeri qui in Cina, nonostante i grandi investimenti, siamo rimasti a pochissimi modelli, una politica che io sinceramente non ho ben capito, strategia di penetrazione del mercato, perché se noi vediamo la Volkswagen che ha circa il 20% del mercato, produce 800.000 automobili, è entrata nel 84 e ha qui praticamente una ventina di modelli. E noi siamo ma sto parlando modelli, gli ultimi modelli. E noi quali modelli abbiamo? Dillo perché me l'hai scritto. Quali noi modelli? Noi abbiamo qui, ma abbiamo, a parte qualche tentativo di importazione, noi qui produciamo la Palio, la Siena, ecco. E c'è qualche progetto che purtroppo adesso, dopo la rottura della joint venture a Nanchino, praticamente la Fiat non ha un vero e proprio stabilimento dove produrre una fabbrica, una macchina propria qui in Cina. Va bene, Sara, ti devo fermare perché il programma è finito. Mi sembra che il tema sia molto, molto ampio, ti proporrei di tornarci sopra presto, mi sembra molto interessante. Va bene? È importante, va bene. Allora, grazie a Sara Capozzoli. Tornata in trasmissione, come è tornata lei? Eccola qua, Vivian Su, grande richiesta. Ride molto molto soddisfatta, ha tolto di mezzo quelle bestiole che non si capiva neanche esattamente cosa fossero, questi chipmunks che con quelle voci stridule. Questa è Vivian. Un paio di notiziole, dunque, Barack Obama è ancora in conferenza stampa, sta rispondendo ai giornalisti. Naturalmente le domande vertono su due argomenti e due soltanto, economia da una parte, Gaza, Israele dall'altra. Lui ha appena detto la solita frase estremamente chiara, non ci possono essere due amministrazioni che agiscono contemporaneamente in politica estera, dal 20 se ne riparla. E poi notizione che contraddice esattamente quello che avevamo raccontato in partenza è che i democratici avrebbero cambiato idea a Washington e consentiranno all'ex procuratore generale dell'Illinois Roland Burris, che ormai è già il nostro eroe, di occupare il seggio del Senato lasciato vacante da Obama. Un altro successo per Blago, ormai il cattivo per antonomasia, e arriverà la firmetta che permetterà a Burris di mettere il sedere su quel seggio. Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Filippo Aureggi, la mail Jefferson Ming tra i24.it, i siti Facebook sono redazione Jefferson Ming per parlare con noi, Jefferson Ming Radio 24 per discutere dei temi del programma. Andiamo in replica stasera alle 9, ci risentiamo attorno alle 4 domani qui su Radio 24. <音><音>